si parte dai libri, che è una cosa a cui io tengo molto e che è un modo diverso anche di proporre cultura e la sicurezza insieme. Perché dico questo? Perché siamo in Bolognina e abbiamo aperto questo punto di lettura che chiamiamo Lucioteca, non a caso perché siamo in Piazza Dalla, dentro la casa di quartiere Katia Bertasi. È un punto dedicato soprattutto agli adolescenti, non esclusivamente solo ai più giovani, però anche la scelta dei libri è stata indicata da loro ed è ovviamente stata fatta pensando ai più giovani, proprio perché possano avere un luogo aperto di scambio, accessibile, gratuito, in cui trovarsi, in cui toccare, maneggiare, prendere, riporre i libri e dai libri anche stare insieme in una maniera differente. Quindi ha molto a che fare con la sicurezza come la intendiamo noi, rispetto anche alla prevenzione, a un'educazione, anche a una libertà che non solo arriva dai libri ma anche dal gestire questo spazio, che infatti è aperto, non ha le porte, proprio perché pensiamo che educare alla libertà significhi anche educare e dare strumenti ai ragazzi rispetto ai limiti, a quello che si può fare, che è buono fare anche per loro stessi. E quindi è un approccio che in Bolognina io penso serva molto e serva più in generale a tutti i ragazzi e le ragazze. Che importanza può avere un'iniziativa come questa, che è tipicamente culturale, in un ambito più vasto di welfare sociale? È il lavoro che le case di quartiere portano avanti silenziosamente ogni giorno, e lo fanno in questo caso con Bottega Finzioni, che è un'associazione che si occupa proprio di scrittura, ideazione, storie, lettura. È importante proprio per dare anche una prospettiva differente. Fuori molto spesso ci sono cose brutte, dobbiamo dirlo, viviamo tempi molto oscuri e anche le prospettive e il futuro che i nostri ragazzi e le nostre ragazze possono immaginarsi sono molto più oscuri rispetto a quelli di qualche generazione fa, e poter dare loro l'opportunità anche di immaginare qualcosa di diverso stando nel nostro quartiere è molto importante, perché i libri salvano, ne sono proprio molto molto convinta, e anche quando salvano una vita sola è un successo.